siamo occupati in modo più particolare degli ultimi decenni del XX secolo. Il rapporto fra utopia e distopia è credo, un modo per ragionare su una questione che attraversa l'immaginario artistico, l'immaginario filosofico dell'intero secolo e in modo particolare per l'appunto il rapporto fra gli anni 60 e gli anni 90. Cosa vogliono dire queste due parole? La parola utopia non occorre spiegarla, in greco significa non e topos significa luogo, quindi è il luogo che non esiste. E nel lessico filosofico moderno la parola utopia viene a significare un luogo che non esiste, ma che rappresenta, contiene i contenuti ideali che la realtà non è in grado di realizzare. Quindi il concetto di utopia, fin da quando Thomas Moore nel corso del Cinquecento scrive un libro intitolato Utopia per l'appunto, nel quale descrive come la cosa pubblica potrebbe essere gestita per il bene dell'umanità. Moore scrive questo saggio Utopia in contemporanea più o meno con Il Principe di Machiavelli. Siamo nello stesso periodo, siamo all'inizio dell'epoca moderna e all'inizio quindi della riflessione su che cos'è la politica, cosa deve fare la politica. E Thomas Moore concepisce questa utopia di una politica che realizza l'ideale di una società perfetta a suo modo. Comunque, la parola utopia poi ritorna nel corso della modernità fino a prendere un connotato particolare all'inizio dell'Ottocento, quando il primo pensiero socialista, autori come Proudhon, Owen, Fourier, immaginano delle società a carattere socialista, comunista, in cui la produzione, la distribuzione, le forme di vita sono perfettamente egualitarie. Insomma, il concetto di utopia prende forma in quella maniera. Marx sbeffeggia in qualche modo gli utopisti dicendo che il compito della politica non è elaborare. Lui dice: io non scrivo ricette per la trattoria dell'avvenire, non è questa la mia intenzione, dice Marx. E il socialismo deve uscire dall'utopia per trasformarsi in una scienza. E come fa Marx a trasformare il socialismo in una scienza? La smette di parlare di ricette, la smette di dire che come il mondo sarebbe bello se fosse fatto così o cosà. E dice invece come il mondo è realmente e quali potenzialità esso contenga. Marx passa decisamente dalla descrizione di un mondo ideale alla analisi delle contraddizioni presenti nel mondo reale, nel mondo che c'è, per vedere, per immaginare quali tendenze all'interno del presente si delineano. Ecco, il concetto di tendenza potremmo dire il contrario, non è il contrario, è tutt'altra cosa rispetto al concetto di utopia. L'utopia è una trattoria per la ricerca dell'avvenire. La tendenza è ciò che sta dentro le cose presenti e che ciò che potrebbe evolversi in una direzione, ma potrebbe anche evolversi in un'altra. Ecco, questo è il modo in cui Marx parla di quella che non è più un'utopia, nelle sue parole, ma deve invece diventare una scienza del possibile, diciamo così. Possibile, naturalmente, come abbiamo già avuto modo di dire a un certo punto, non è il necessario. Abbiamo letto un brano da un libro di Caronia in cui proprio si parla della questione del possibile. Possibile una evoluzione della tendenza. Ma ciò che è possibile, pur essendo immanente, cioè pur essendo presente qui nel modo in cui le cose sono attualmente, non necessariamente si determinerà. Il possibile non è necessario. Essendo possibile, è una delle evoluzioni. E il possibile, questo osservava Caronia in quell'articolo, quel brano che abbiamo letto, non è neppure virtuale, nel senso che il virtuale contiene le condizioni di una attualizzazione che non comporta alternative. Ciò che sta iscritto virtualmente in un codice, in un algoritmo, in una formula, può attualizzarsi unicamente secondo le condizioni, secondo gli sviluppi, può non attualizzarsi, oppure si attualizzerà in quella maniera lì, mentre il possibile si apre a delle alternative che potranno andare in direzioni fra loro molto differenti. Vabbè. Giusto per dire che il concetto di utopia è un concetto che appare più nella sfera dell'immaginario che nella sfera della scienza o nella sfera della politica intesa in senso realistico. Nel Novecento l'utopia si sposta piuttosto nella dimensione dell'immaginario, nella dimensione dell'arte. E in fondo l'avanguardia del Novecento per gran parte è sperimentazione e al tempo stesso utopia, però un'utopia progettuale, un'utopia che immagina ciò che poi il progetto si incarica di rendere realistico. Ma insomma, la storia dell'utopia a un certo punto sembra lasciare il passo alla storia di un'altra forma di immaginazione del futuro, che è quella che chiamiamo distopia. Distopia significa non proprio il contrario di utopia, diciamo un'utopia che invece di rappresentare la la perfezione desiderabile rappresenta la perfezione indesiderabile. Dis in greco indica sempre una forma di deviazione, di disturbo per l'appunto, spostamento, di negazione. E dunque, se l'utopia è l'immaginazione di un mondo ideale, perfetto, felice, che però non c'è, non si realizzerà, la distopia rappresenta l'immaginazione di un mondo perfettamente infelice, perfettamente, beh, diciamo infernale, ecco, questa è un po' la distopia. E voi vedete che l'immaginazione artistica sembra quasi nel corso del Novecento scivolare dalla dimensione utopica verso la dimensione distopica. Ecco, io credo che questo sia un aspetto importante della modificazione della percezione stessa del futuro. È il futuro che è in questione quando parliamo di utopia o quando parliamo di distopia, evidentemente. La questione del futuro è una questione centrale nella storia della cultura della modernità e particolarmente del XX secolo. Probabilmente il vero atto di nascita dell'avanguardia artistica del Novecento può essere considerato un manifesto futurista del 1909. Il futurismo contiene in modo esplicito, consapevole, dichiarato questa volontà, questa vocazione di affermare la potenzialità positiva del futuro. Quali sono poi i contenuti di questa potenzialità positiva del futuro? La tecnica, la macchina, la velocità, i valori della modernità, anche di una modernità aggressiva. Il futurismo, soprattutto il futurismo italiano, è un movimento che incarna non solo l'utopia del futuro, ma che incarna soprattutto l'aggressività, la violenza di questo futuro che vuole affermarsi a tutti i costi. Voi ricordate, immagino, il manifesto di Marinetti del 1909. Ricordate che in quel manifesto, dopo aver detto che la bellezza, la nuova grande bellezza è la bellezza della macchina, è la bellezza della velocità. E dopo aver detto questo, Marinetti aggiunge anche che la guerra è la sola igiene del mondo, è la forma privilegiata che assume il progresso, lo sviluppo, l'emergenza del futuro. E afferma ad un certo punto il disprezzo della donna, che significa poi essenzialmente disprezzo dei valori femminili, che sarebbero i valori contrapposti alla guerra, contrapposti all'aggressività, contrapposti alla forza dominatrice. Insomma, il futurismo italiano emerge come movimento essenzialmente imperialista, aggressivo, fascista. Notoriamente il futurismo italiano è il movimento che rappresenta culturalmente l'emergere del fascismo italiano. Poi bisognerebbe approfondire il discorso: cos'è il fascismo in Italia o più in generale? Allora, la questione naturalmente è complicata, ma potremmo dire che il fascismo è l'affermazione aggressiva dei valori della modernità, Potremmo dire, con riferimento particolare alla situazione italiana, che il fascismo è il tentativo di cancellare la femminilità dalla percezione di sé, prima di tutto dalla percezione di sé. Se pensiamo al caso italiano, questo è particolarmente forte, perché la cultura italiana, la percezione italiana, se voi ci pensate, la percezione, la autopercezione dell'identità italiana è essenzialmente sempre stata un'autopercezione femminile. Dante o Petrarca rappresentano l'Italia come una femmina. Quando Dante parla dell'Italia, ne parla nel bene e nel male. Non donna di provincia, ma bordello, o quando Petrarca dice: Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, la bellezza dell'identità italiana è una bellezza femminile. Il Rinascimento, in questo senso, esalta, accentua la femminilità della percezione di sé, dell'identità italiana. E poi potremmo continuare riferendoci a Poliziano nella poesia, o riferendoci a Botticelli nella pittura. E la identificazione dei caratteri essenziali della bellezza moderna, rinascimentale, poi moderna, e comunque della bellezza dell'identità italiana sono di questo genere. Ecco, poi la femminilità comincia a diventare invece un elemento di debolezza, viene percepita. Nella modernità la femminilità viene percepita come debolezza. E, dal 600 in poi l'esperienza storica, politica italiana è la storia di una sudditanza, di una soggezione, di una sottomissione, di una sconfitta. La spartizione del territorio italiano, il predominio spagnolo, poi il predominio francese, e poi il predominio austriaco, e quindi questo sentimento di essere sottomessi e femminili, che nello spirito italiano del Risorgimento, ad esempio, sono due idee, due percezioni di sé molto collegate. Ecco allora che nel momento in cui il nazionalismo italiano vuole affermare maschilmente, virilmente, una identità indipendente e poi aggressiva, insomma siamo una nazione moderna fra le nazioni moderne, ecco che a questo punto la femminilità deve essere negata, cancellata, diventa quasi un oggetto vergognoso. Il fascismo è questo, a mio parere il fascismo è essenzialmente una rimozione della femminilità, della corporeità, della sensualità e anche della bellezza. L'identità italiana, nasce quell'orrore che è l'Italia unitaria, insomma, quell'aborto mal riuscito. E credo che il fascismo sia proprio consustanziale all'identità italiana. Non c'è Italia senza fascismo, l'esperienza recente lo dimostra. Per 20 anni in Italia, tra gli anni 60 e gli anni 70, forse dalla Resistenza fino agli anni 70, è sembrato che la democrazia potesse prevalere, che la civiltà potesse prevalere. In realtà era un'illusione, perché in quegli anni l'Italia non era l'Italia, faceva parte di una realtà molto più grande, che era il processo di trasformazione sociale internazionalista, Italia era Sud America, era Cina, era Stati Uniti, era l'Inghilterra, erano i Beatles e i Rolling Stones. Per un po' l'Italia si è dimenticata di essere quello che è ed è diventata un posto civile. Poi è ritornata ad essere quel luogo in cui non c'è che fascismo. Ecco, questa è. E dunque l'identità italiana, poi è chiaro che a questo punto ora. Avete visto i film di Sorrentino? Ecco, ve lo consiglio. Io l'ho visto 2 giorni fa, ieri sono rimasto a letto tutto il giorno perché la depressione era tale che non riuscivo letteralmente ad alzarmi da letto. E ho stabilito che ero malato e forse lo ero davvero, oppure forse non lo ero, ma oggi lo sarò. Comunque ho visto La grande bellezza, poi mi sono andata a rivedere subito, appena tornato a casa, sono andata a rivedere Il Divo. Ecco, e effettivamente Sorrentino, secondo me, sono tre grandi registi italiani che non sono italiani. Uno è Sorrentino, l'altro è Matteo Garrone e l'altro è I Moretti di Abemus Papam, non tutto il resto di Moretti che non mi piace, ma Abemus Papam in cui tutto a un tratto Moretti diventa un grande regista. E se ci pensate, a parte il fatto che Abemus Papam come Gomorra di Garrone, ma anche come quello ultimo su reality show, non mi ricordo come si chiama, reality per l'appunto, e tutto Sorrentino, sono in qualche modo degli omaggi al barocco. C'è Caravaggio, Caravaggio dappertutto in Sorrentino, no? Andreotti dipinto da Caravaggio in qualche maniera, il rapporto fra i rossi, gialli e neri, questa oscurità che inghiotte l'esplosione di colori aggressivi, ubriachi quasi, in qualche modo. Questo. Io non so poi, la grande bellezza, non sono sicuro che sia un grande film per varie ragioni, è episodico, non ha la compattezza che ha ad esempio il Divo, però quello che mi interessa molto è questo, insomma, la messa in questione coloristica, vorrei dire, barocca, partendo da una rivisitazione del senso del barocco, un ripensamento sul fallimento italiano, sul fatto che l'Italia è un esperimento fallito. Mi starterebbe di riconoscere, ma chi lo può riconoscere? Napolitano, il figlio di Vittorio Emanuele III. Cos'è il barocco? So che sto andando fuori tema, sono terribilmente fuori tema, ma l'ho preso così. Adesso finisco rapidamente, per non lasciare le cose a metà. Cos'è il barocco? No, non so se qualcuno ha una risposta, naturalmente per una domanda come questa si può rispondere in mille maniere, però Deleuze scrive che il barocco è una transizione a una dimensione troppo affollata, alla dimensione del troppo, del too much, della piega. Io direi, per spiegare cos'è il barocco, la direi così, che nel corso del 400 l'umanesimo si era accorto del fatto che il mondo esiste grazie, il mondo esiste, il mondo è ordinato grazie ad una proiezione visuale, geometrica, che è quella della prospettivizzazione percettiva, ma non solo percettiva, anche architettonica, anche costruttiva. Siccome i miei occhi vedono un mondo ordinato secondo regole geometriche, allora poi le mie mani costruiscono effettivamente il mondo in quella maniera lì, no? E dunque la costruzione di un mondo prospettico, un mondo ordinato, umano perché governato dalla razionalità unitaria dell'umano. Questo è, diciamo, il punto di partenza della modernità, dell'umanesimo moderno. Poi ecco che nel 600 ne succedono di tutti i colori e la riforma protestante cinquecentesca, la rottura del mondo cristiano, l'emergere della potenza dei paesi protestanti, la divisione dell'Europa e della cristianità e alla fine la riscossa cattolica con la Controriforma. Cos'è la Controriforma? È la riaffermazione del predominio della Chiesa cattolica, ma sul piano culturale la Controriforma consiste essenzialmente in una rivendicazione della complessità del mondo di Dio rispetto alla semplificazione umanistica. Cioè, detto altrimenti, la Controriforma, che è la dimensione storica del barocco, in cui il barocco si afferma, ti dice, sì, d'accordo, l'uomo vede il mondo secondo un punto, un punto di vista prospettico, ma Dio non ha una prospettiva sola, ne ha infinite, e dunque da qui il mondo è così, da lì il mondo è così, da là il mondo è così. La prospettiva affermata dal Rinascimento umanistico si moltiplica infinite volte. E nel barocco spagnolo questo è molto esplicito, c'è un tizio che si chiama Alvaro de Mendoza che scrive proprio una cosa sulla molteplicità del punto di vista divino, cioè non si può pretendere che la prospettiva sia una sola, perché questo sarebbe un modo di ridurre l'infinita visione, l'infinita consapevolezza, insomma, di Dio. Quindi l'infinità di Dio rispetto alla semplicità, alla unidimensionalità dell'umano, questo in qualche modo è il barocco. Quindi la prospettiva viene messa viene moltiplicata all'infinito. E ora, se ci pensate, questo che è il punto di vista del barocco, nel corso della modernità il barocco viene un po' emarginato, un po' marginalizzato. Sapete che il pensiero sociologico, particolarmente un autore come Max Weber, conoscete Max Weber? Sapete che Max Weber ha scritto un libro che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. In questo libro Max Weber dice: il capitalismo moderno, la borghesia moderna, fonda la sua potenza sulla semplicità protestante, l'ascesi, il gotico, la pulizia, la riduzione al minimo, l'abolizione delle immagini, l'abolizione di tutta quella santeria, madonne, immagini, no, la purezza del rapporto fra l'uomo e Dio. Questo fonda la borghesia moderna, la borghesia protestante. E effettivamente Max Weber spiega che lo spirito ascetico, lo spirito non ascetico, diciamo piuttosto sobrio, della borghesia è la condizione per il risparmio e quindi l'accumulazione e quindi la creazione poi dell'industria e così via. Non dimentichiamo che la borghesia moderna è una classe essenzialmente legata al territorio, alla comunità, al futuro, alla costruzione del futuro. La parola borghesia nasce dalla parola borgo, quindi la borghesia è una classe fortemente territorializzata, fortemente legata al locale e al suo futuro. Questa è la modernità protestante, ma non c'è solo quella modernità lì, ce n'è un'altra nascosta che sbuca fuori nel corso alla fine del Novecento. È il barocco rimosso, non che il barocco scompaia, naturalmente ci sono parti del mondo, a cominciare dall'Italia, con la Spagna, continuare con la Spagna, e tutto il Sud America, parte anche del Centro Europa. Andate a Praga se volete sapere cos'è il barocco. Sul piano storico, giusto alcune date, perché magari non ve le ricordate tutte, si può dire che la riforma protestante comincia quando nel 1517 Martin Lutero attacca sulla porta della chiesa di Württemberg le sue 99 tesi, in cui dice: basta col Papa, basta con lo spreco, la corruzione della Chiesa di Roma, noi tedeschi ce ne andiamo per conto nostro, noi nordici, diciamo, ce ne andiamo per conto nostro. Inizia una spaccatura del mondo cristiano. Per tutto il Cinquecento questa spaccatura si manifesta in varie maniere, fino a quando proprio non esplode una vera e propria guerra tra protestanti nordici e cattolici spagnoli e italiani. Questa guerra culmina nel 1620 con una battaglia che si svolge poco lontano da Praga, la battaglia della Montagna Bianca, in cui non vince né l'uno né l'altro esercito, ma si stabilisce che quello è il punto di separazione fra mondo protestante a nord e mondo cattolico a sud. Nel 1648 c'è il Trattato di Worms, il Trattato di Westfalia, anzi, in cui viene stabilito il principio cuius regio, un cane? Eius religio, che vuole dire dove la religione deve essere legata alla regione, cioè ci saranno regioni che hanno una religione e regioni che ne hanno un'altra, quindi viene stabilito il principio della divisione dell'Europa in due sfere religiose distinte. Inizia la storia della modernità europea. E cos'è la storia della modernità europea? Beh, lo sappiamo benissimo. Il nord, la Germania, l'Inghilterra, la Scandinavia, il Nord America, vanno rapidamente verso la trasformazione industriale. Il sud, l'Italia, la Spagna o il Sud America, rimangono, diciamo, se vogliamo dire così, arretrate dal punto di vista economico, nel senso che non sviluppano un'economia industriale, ma perché? Beh, per mille ragioni complicate, ma anche perché il nord protestante è guidato dal principio della sobrietà, dell'attaccamento al territorio e della responsabilità individuale del cristiano di fronte a Dio. Il cristiano parla direttamente con Dio, non ha bisogno di un confessore a cui va a raccontare i fatti suoi, e quindi il principio di responsabilità diventa l'elemento decisivo di un progresso economico che porta il Nord Europa a diventare quello che è stato, insomma, nel corso della modernità. E il Sud europeo invece rimane legato ad una visione della vita molto più diciamo auto-assolutorio, posso peccare perché tanto poi vado dal confessore e lui mi darà la soluzione e non sono responsabile di quello che faccio. Si sa, siamo tutti peccatori, e inoltre il sentimento di responsabilità viene come attutito da una appartenenza alla comunità che tutto perdona, tutto accoglie, in nome della complessità stessa della vita. La vita è troppo complicata per pensare di poterla ridurre a questo futuro economico del protestantesimo. Insomma, le condizioni culturali del barocco, della Controriforma, del predominio cattolico, fanno dell'Europa del Sud un territorio economicamente meno dinamico, meno aggressivo. Così, se vogliamo, ci possiamo spiegare qualcosa. Però poi, ad un certo punto, ecco che il barocco ritorna sulla scena del mondo. E si potrebbe dire che il Novecento rappresenta il ritorno della complessità che il barocco aveva interpretato. Io mi spingerei fino a dire che l'epoca del capitalismo semiotico, del capitalismo immateriale, l'epoca in cui il capitalismo si fonda sempre di più sui media, sul linguaggio, sull'informazione, è un'epoca in cui il barocco sta benissimo di casa. Non è più... Oddio, mi scuso. Chi è? Vabbè. Torno subito. Pronto? Se no possiamo anche solamente a posto. Perché non ci sono mai? Beh, per fortuna è arrivata questa telefonata, se no non riuscivo più ad orizzontarmi. E non so com'è che mi è partita questa cosa sul barocco, però per farla breve e concludere, ciao. E, per concludere, qualcuno sa chi è Curzio Malaparte? Mai sentito nominare Curzio Malaparte? Sì. Malaparte. È uno scrittore italiano, è autore di un romanzo meraviglioso che si chiama La pelle, e poi di altre cose, Caput, ha scritto, ma la parte è stato fascista, è stato uno degli scrittori più vicini al regime nei primi anni, e nel 1925 ha scritto un libro intitolato L'Europa vivente, in cui dice proprio in modo esplicito: questi protestanti del nord credono di essere solo loro moderni, ma siamo moderni anche noi, e adesso ve lo facciamo vedere. Il fascismo è il ritorno del barocco. E se ci pensate, il fascismo prima di tutto è uno spettacolo. La politica non è più un'attività razionale finalizzata al perseguimento dell'interesse comune, alla responsabilità nei confronti di Dio o comunque di un interesse superiore. No, la politica è lo spettacolo, la moltiplicazione dei gesti, è una produttività infinita la politica, è la menzogna, perché in fondo, siccome Dio è la compresenza di tutti gli enunciati, Dio non è quella idea povera della verità che hanno i protestanti, la verità sarebbe una sola, no, la verità sono tutte le verità, la verità è la contraddizione, la complessità, la compresenza di scenari fra loro contraddittori. Ecco perché Berlusconi è la perfezione di questo, insomma, la menzogna che diventa sistema, al punto da stupirsi quando qualcuno ti dice: ma scusa, ieri hai detto una cosa, oggi dici l'esatto contrario. E naturalmente un certo nostro animo protestante e semplicista pretenderebbe dal potere la coerenza, ma il potere non è coerenza, il potere è arbitrarietà, è potenza dell'imposizione arbitraria. In un certo senso è Berlusconi che ha ragione da questo punto di vista, lui sa cos'è il potere. Il potere non è la verità, è il contrario della verità. E, ma insomma, comunque, tutte queste cose me le ha fatte ritornare in mente questo film di Sorrentino. E vabbè, stavamo parlando di utopia e distopia, e torniamo al XX secolo, e da un certo momento in poi l'immaginazione del futuro da parte della letteratura, dell'arte e in qualche modo anche da parte della politica si colora di tinte oscure, di tinte distopiche. Il caso forse più illustre di tutti di questa immaginazione distopica è 1984 di Orwell, un libro nel quale viene compiutamente immaginato un mondo futuro che è un mondo nel quale il potere viene incarnato dalla visibilità, dall'assoluta visibilità. Il potere è l'occhio che ci controlla in ogni istante, e il contenuto principale della volontà del potere è proprio l'eliminazione di tutto ciò che insomma, dei libri, del sapere stesso, della conoscenza stessa. Solo il potere può sapere e può informarci, può darci il suo sapere. Viene abolita la possibilità viene interdetta, vietata la possibilità di avere accesso diretto al sapere. Questo è 1984 di Orwell. Ma dalla metà del XX secolo in poi, 1984 è un libro scritto nel 1948, Orwell semplicemente inverte gli anni e immagina che questo mondo della perfetta menzogna e del perfetto arbitrio sarà costituito nell'anno 1984. Non sbaglia di moltissimo effettivamente Orwell, perché gli anni 80 sono gli anni in cui la menzogna prende il sopravvento, la televisione diventa il medium dominante, il neoliberismo inizia la sua piena affermazione e così via. Ecco, nella seconda parte del XX secolo l'immaginazione si fa prevalentemente immaginazione distopica. Il punk in qualche modo è l'emergere di una immaginazione distopica come predominante negli anni che seguono, gli anni 70 e così via. E il cyberpunk porta questa immaginazione distopica nel cuore stesso della tecnologia, del futuro tecnologico che andava affermandosi come sempre più invadente a partire dagli anni 70. Ecco, siamo così arrivati al punto. Allora, io vi ho mandato queste paginette su utopia e distopia, tanto per introdurre l'argomento. Credo che abbiamo detto molte cose che non sono contenute in quelle tre paginette che vi ho mandato, ma insomma tanto per sintetizzare, per chiarire alcuni concetti. Poi se ci riesco vi manderò delle altre cose, ma insomma alcuni testi ormai voi ce li avete. Per fare una rapida sintesi, questi testi sono alcune pagine sulle questioni del cyberpunk che abbiamo tratto da un libro di Caronia, alcune altre pagine su i cyborg, su quel, diciamo, l'intreccio di organico ed inorganico nell'opera di ancora preso da un libro di Caronia. Poi, per chi fosse interessato e per chi può leggere l'inglese, questo libro di Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture, di cui trovate il PDF in rete molto semplicemente, per cui per esempio vi potete leggere, se ne avete voglia, anche solamente il primo capitolo, che è quello in cui si parla del discorso di Mario Savio, a cui ho fatto tante volte riferimento. Ecco, io non vorrei avere provocato troppa confusione, perché mi rendo conto di avere affrontato degli argomenti un po' distanti fra loro. Mario Savio, la questione del rapporto fra sapere e potere, il movimento studentesco degli anni 60. Poi la questione della tecnologia, in modo come manifestazione particolare del rapporto fra sapere e potere, e quindi la questione del cyberpunk. Poi il rapporto fra gli anni 60 e gli anni 90 come due momenti nei quali il problema, il solito problema, sapere e potere, diciamo che al centro di tutte queste questioni di cui stiamo parlando c'è il rapporto fra sapere e potere. La tecnologia non è che una manifestazione del rapporto fra sapere e potere. Negli anni 60 e negli anni 90 questa tematica del rapporto fra sapere e potere si ripresenta in maniera profondamente mutata, ma anche con un elemento di continuità. Ecco, e poi alcuni movimenti letterari, prima di tutto quello cyberpunk, in cui emerge la questione della tecnologia in forma prevalentemente distopica, riproponendo ancora una volta il passaggio dalla immaginazione degli anni 60 alla realtà degli anni 90. Ecco, insomma, questi sono i temi. Se l'esposizione di questi temi vi appare confusa, io me ne assumo interamente la responsabilità, e quindi poi ciascuno di voi sceglierà un argomento solo, non tutti questi. Io ho cercato di tessere tutta la tela, però l'importante è che ciascuno di voi si concentri, chi vorrà farlo, insomma, si concentri su un aspetto particolare, un autore, un testo, una delle tante cose che ho cercato un poco di affrontare nel corso di questo sproloquio. E per finire Philip Dick, come se non bastasse tutto il casino, io insisto però su questa questione, del fatto che il mio compito è fare confusione, il vostro compito è mettere in ordine, e nel senso che voi scegliete un tema o anche più di uno e intorno a quello, partendo dai pochi testi che avete, però sono pochi quelli che vi ho mandato io, se volete ad esempio questo libro lo trovate, vi assicuro che questo è un libro divertentissimo, Ecco, per finire, Philip Dick. Perché Philip Dick? Intanto perché è uno degli oggetti dell'attenzione di Caronia, forse il più amato degli autori di cui Caronia si è occupato. Poi perché non c'è espressione migliore della tematica che sono andato sviluppando, cioè il rapporto fra gli anni 60 e gli anni 90, questa continuità che però è anche una continuità contraddittoria, non c'è dimostrazione migliore della opera proliferante di Philip Dick. Proliferante è la parola che meglio lo esprime. Cosa vuol dire proliferante? Proliferare in italiano vuol dire che va da tutte le parti. In proliferare c'è l'idea del mettere al mondo, prole, la prole, i figli, e però fer invece vuole dire portare, quindi c'è la proliferazione è un atto, un'azione, un processo attraverso il quale la realtà si moltiplica, non finisce mai di moltiplicarsi. Ecco, questo in fondo è l'effetto delle tecnologie reticolari. La rete è essenzialmente proliferazione. La rete è la dimensione in cui l'enunciato, l'immagine, l'atto di linguaggio si moltiplica infinitamente in tutte le direzioni, al punto che non siamo più in grado di dire quale sia il luogo. Non c'è più luogo. Ogni luogo è attraversato da flussi che provengono da ogni direzione. Deleuze e Guattari usano la parola deterritorializzazione per intendere questo processo. Deterritorializzare significa proprio perdere il territorio. E la deterritorializzazione è in fondo l'effetto antropologico, psicologico, più evidente, prodotto dalle tecnologie virtuali, che sono anche tecnologie reticolari. E all'interno di un processo di deterritorializzazione, molto spesso noi, esseri umani, fragili, psicologicamente deboli, reagiamo talvolta, anzi spesso, con una forma di riterritorializzazione, cioè cerchiamo di aggrapparci a qualcosa, di aggrapparci a un'identità, di aggrapparci ad un luogo, a una patria, a una famiglia, a una mafia, a un'idea e così via. L'effetto di riterritorializzazione è un effetto, da una parte è del tutto naturale, non Deleuze e Guattari non lo descrivono come un fatto in sé negativo, però il bisogno di riterritorializzazione è anche la radice di molte delle forme paranoiche del comportamento tardo-moderno, postmoderno, che dir si voglia. E, per esempio, il fascismo contemporaneo per molti aspetti è un effetto di riterritorializzazione. La paura del diverso, la paura della contaminazione etnica e quindi l'identificazione nella Lombardia, capirai, e se ti piace va bene, contento tu, e ecco il bisogno di identificarsi in un luogo, in un territorio che diventa poi la barriera contro la proliferazione. Chiaro che la deterritorializzazione contemporanea è un gioco complesso, è un gioco che provoca panico, il panico, una patologia che si diffonde nel nostro tempo. Sapete che il panico non era considerato neppure una patologia fino a 20 anni fa, non era nella lista delle patologie, mentre oggi sappiamo che la crisi di panico è una delle manifestazioni patologiche più in espansione, soprattutto nelle generazioni giovani. E cos'è il panico? Panico è proprio, si potrebbe dire che è la reazione della mente umana privata dei filtri territoriali di fronte ad un mondo infinitamente proliferante. Cioè il mondo si mette ad andare troppo veloce per una mente che non è più in grado di filtrare la realtà attraverso i filtri tradizionali della identità, della famiglia, del luogo, eccetera, eccetera. Ma il mondo è questo. Ecco, dunque, è un mondo che certamente mette in moto delle dinamiche paniche, e a queste dinamiche paniche talvolta noi reagiamo o con una perdita del nostro sentimento di identità e con un effetto di tipo panico, talvolta invece aggrappandoci in modo cieco ad una identità fittizia, ad un'identità riduttiva, eccetera, eccetera. Dick, ecco, in Philip Dick tutto questo c'è in modo, come in una specie di giostra impazzita. Philip Dick vive in California, ha sempre vissuto, è nato a Berkeley, nella baia di San Francisco, un posto ad altissima densità culturale. Berkeley è il posto in cui si trova una delle università americane più importanti e forse anche più interessanti, e anche certamente una delle università politicamente più schierata con i movimenti per, diciamo, antirazzisti, la sinistra liberal americana trova in Berkeley uno dei suoi centri più importanti. Non a caso a Berkeley Mario Savio pronuncia quel discorso nel 1964. Se uno cerca il centro della grande transizione degli ultimi decenni, forse lo trova Berkeley, insomma, lo trova lì. La Silicon Valley a poca distanza, una delle università più importanti degli Stati Uniti, e anche una ricchezza di espressioni letterarie e artistiche che ha pochi paragoni nel mondo. Negli anni 60, Philip Dick comincia a scrivere già nei primi anni 50, pubblica racconti di fantascienza per guadagnarsi da vivere, quindi deve scrivere in quel modo, anche se lui vorrebbe essere uno scrittore mainstream, non vorrebbe essere uno scrittore di fantascienza, non vorrebbe essere identificato come uno scrittore un po' di secondo piano, perché così viene percepita la fantascienza, come un genere pop, pulp, non proprio la grande letteratura. E quindi a più riprese... Va anche molto male poi nella realtà dei fatti. Scusa? Nonostante affrontasse degli ottimi argomenti, comunque di un'attualità incredibile, scriveva anche malino. No, sai che è discutibile ci questo. Ci sono libri che ha scritto in 2 settimane. Ah beh, certo. Alcune cose, molte cose di Philip Dick sono scritte. Poi in alcuni casi Philip Dick si prende molto sul serio, scrive alcuni romanzi che per lui dovrebbero essere grande letteratura e invece probabilmente non sono grande letteratura. E poi invece ci sono alcune cose che lui scrive a metà, diciamo, pensa ad esempio a Ubik o a Valis o allo stesso Blade Runner, insomma, Blue Android, Dream of Electric Sheep, oppure un'opera, un romanzo che secondo me è grandissimo, che è Scanner Darkly, un oscuro scrutare, e quelli sono opere pop che finiscono poi per rientrare nel genere della fantascienza, ma che invece possono benissimo essere lette come letteratura pura. E in alcuni, poi naturalmente il giudizio sulla qualità estetica, hai firmato? No. Il giudizio sulla, se vuoi, va bene lo stesso. Il giudizio sulla qualità estetica naturalmente è sempre discutibile, opinabile, però certe ingenuità letterarie di Philip Dick a me paiono invece molto, anche certe indefinitezze che si potrebbero considerare segno di una ingenua letteratura, secondo me qualche volta. Allora, da un altro punto di vista formano proprio, danno quell'impressione di primi anni del consumismo in cui c'è una sorta di frivolezza estetica. Anche. E quindi anche un po' di povertà rende meglio quel tipo di atmosfera, sbagliato negli anni 60. Sì, lo penso anche io. Penso anche io che c'è proprio questa ingenuità certe volte che però poi. E poi c'è una follia di Philip Dick che diventa in qualche momento l'elemento più eccitante della sua letteratura. Naturalmente potremmo citare altri autori come Thomas Pynchon, ecco, per dire, vabbè, Thomas Pynchon è Philip Dick vestito bene, è Philip Dick che finalmente è grande letteratura, però per quanto Pynchon sia grandissimo, però qualche volta Philip Dick è più vorrei quasi dire commovente, insomma, più ti prende più di più. Altra citazione che si può fare per mettere Dick in prospettiva è Don DeLillo, ad esempio, che certamente è un grande scrittore, ha una consapevolezza della scrittura molto più raffinata, molto più elevata. Altro riferimento in un'altra direzione è William Burroughs. Ecco, William Burroughs che frequenta molti dei temi che sono i temi di Philip Dick, la droga, l'allucinazione, Dio come allucinazione suprema, la perdita dei confini dell'identità, eccetera, eccetera. Ecco, in Burroughs però siamo in una dimensione che è quella di una letteratura completamente sperimentale, ecco, che non concede nulla alla gradevolezza e all'ingenuità, se vogliamo, commovente di Philip Dick. Ecco, Philip Dick scrive dunque romanzi, ma nelle sue opere c'è anche una continua intenzione filosofica che viene fuori anche questa, talvolta in maniera ingenua, però non povera, non stupida. Certamente Philip Dick è un autodidatta, lo è come letterato e lo è a maggior ragione come filosofo, non è un filosofo, non ha studiato filosofia, anche se certamente ha letto molti libri, però è il modo migliore, il suo probabilmente, per popolarizzare senza banalizzare alcuni temi. Forse il tema che sul piano filosofico e Philip Dick ci presenta con maggiore costanza è quello del rapporto fra realtà e allucinazione, fra realtà e illusione, diciamo, ecco, illusione è la parola che che meglio esprime questo concetto. Illusione vuole dire tante cose. Vuole dire l'effetto che il linguaggio può produrre, il linguaggio produce illusioni, ma in fondo la tecnologia a maggior ragione produce illusioni. Potremmo dire quasi che la tecnologia è il linguaggio fatto, produzione concreta di illusioni, la realtà virtuale, la stessa realtà della rete sono produzione di illusioni. E Philip Dick, con largo anticipo, fin dagli anni 50 e 60, immagina questa potenza tecnologica del linguaggio come potenza di produzione di illusioni. Un altro, dimenticavo, poi sempre parlando di illusioni, allora dobbiamo riferirci alla pubblicità, che è uno dei temi su cui Philip Dick ritorna in molti casi per connotare l'illusione come illusione totalitaria, come menzogna, come forza del potere. Se pensate ad un film come quello di Peter Weir che si chiama Truman Show, pur non essendo preso, non essendo tratto da un romanzo di Philip Dick, riprende molti dei temi che Philip Dick ha elaborato in varie sue opere. E ecco, un altro tema che in Philip Dick ritorna in tutta la sua complessità è il tema dell'androide, il tema del alter ego rispetto all'umano, l'androide come massima espressione della potenza tecnologica, ma anche come illusione in qualche modo, come messa in questione dei limiti fra l'umano e il non umano. Blade Runner, da questo punto di vista, è naturalmente l'esempio più illuminante. Ecco, io vi leggo il capitolo dedicato all'androide che troviamo nel libro di Caronia e Gallo. Come vi ho già detto, questo libro è composto di tre parti. Una prima parte è un lungo saggio intitolato I giorni e le opere di Philip Dick, un lungo saggio introduttivo che analizza l'opera di Philip Dick dal punto di vista della sua biografia, cioè racconta la vita di Philip Dick. Sono 70 pagine, quindi un saggio molto consistente che racconta la vita e contemporaneamente squaderna i temi essenziali dell'opera di Chiana. Poi una parte che è l'enciclopedia di Chiana, fatta di un certo numero di parole attraverso le quali ci viene raccontato l'universo immaginario. Le parole sono alieni, androidi, archetipi, e poi droga, Dio, e poi guerra, e poi storia, e poi eccetera, eccetera. Insomma, illusione, scienza, realtà, religione, una serie di lessemi attraverso i quali ci viene presentato l'universo immaginario e anche filosofico di Philip Dick. La terza parte sono una serie di opere, un bel pacchetto di opere, saranno una trentina di racconti o romanzi che ci vengono sinteticamente raccontati. Romanzi di Philip Dick, una serie di sintesi. Io vi leggo il brano che corrisponde alla voce. Androidi. Quello che mi interessa qua è da una parte il tema a cui facevo riferimento prima, appunto il limite fra la tecnologia e l'umano, il limite che qualche volta diventa quasi un gioco di specchi infiniti, un labirinto, e dall'altra parte il passaggio dalla dimensione utopica alla dimensione distopica, che nella figura dell'androide si concretizza in modo particolarmente forte. Ecco, l'androide è l'utopia della perfezione tecnologica, ma è anche la distopia di un mondo nel quale perdiamo il dominio su noi stessi per essere espropriati dalla tecnologia. Nel romanzo intitolato I simulacri, gli androidi sono esseri perfettamente controllabili e non sfidano il sistema che li ha generati. Stanno al loro posto, fanno quello per cui sono stati progettati. Tanto i modelli Der Alte, il presidente degli Stati Uniti d'America, fabbricati dalla potente azienda tedesca Carp und Sohn, Carp e figli, quanto i più modesti androidi destinati ad accompagnare i coloni umani su Marte, i Fam Next Door, Family of the Next Door, la famiglia della porta accanto, fabbricati da Maury Fraunzimmer. Il presidente fa ampollosi discorsi. I Fam Next Door offrono comprensione e partecipazione ai coloni umani, oltre che naturalmente aiuto produttivo. Niente di più. Infatti, gli androidi quasi non compaiono nel libro, se si eccettuano un breve discorso del presidente, un paio di scene di dialogo tra il personaggio principale e una famiglia di Fam Next Door e l'esilarante simulacro dei Papula, che però androide, strettamente parlando, non è. In questo romanzo gli androidi sono lo sfondo, quelli che stanno in primo piano, perché nessuno sa che sono androidi. No, e quelli che stanno in primo piano ci stanno perché nessuno sa che sono androidi. Dunque, questo è l'androide ben educato, l'androide che fa ciò per cui è stato concepito, è l'androide come componente di un mondo che resta umano e usa gli androidi come parte di sé. La tecnologia in quanto strumento, ma la tecnologia non è solo strumento, questo dovremmo averlo sempre bene a mente. La tecnologia, che banalmente noi consideriamo come uno strumento, è anche un'altra cosa, è anche ambiente. Cioè, noi crediamo di avere costruito gli utensili tecnologici per esserne padroni, però in qualche misura gli utensili tecnologici poi costituiscono un ambiente che poco alla volta modifica le condizioni stesse della nostra vita. Cioè, diciamo, internet è uno strumento, ma è anche un ambiente. E dico internet perché nel caso di internet è del tutto evidente che è così, ma lo stesso potremmo dire del martello, lo stesso potremmo dire del giornale. Quando McLuhan dice che il medium è il messaggio, sta dicendo per l'appunto questo. Cioè, noi abbiamo costruito i medium, i media. Media sono gli utensili tecnologici della comunicazione, ma anche più in generale, della produzione. Noi li abbiamo costruiti pensando di usarli. Però attenzione, che gli strumenti della tecnologia poi si concatenano in maniera tale da diventare a loro volta non dei meri utensili, ma anche degli ambienti. E quindi, alla fine, essi non si limitano a farsi portatori di un messaggio, ma diventano un messaggio essi stessi. anche i Nexus 6 sono stati costruiti per le migrazioni nelle colonie extraterrestri, ma non sanno stare al proprio posto. Nexus 6, ve li ricordate, sono i replicanti di Blade Runner. Perlomeno non tutti. Qualcuno si ribella, non sopporta di lavorare come uno schiavo, di avere solo 4 anni di vita, di dover sottostare a una specie, quella umana, che li ha costruiti, ma li ha costruiti più intelligenti, pronti e reattivi della media degli esseri umani. Quindi tornano sulla Terra e fanno di tutto per farsi dimenticare, come per far dimenticare che sono androidi. Si mimetizzano fra gli umani, fanno le cantanti liriche o gli addetti alla nettezza urbana, o addirittura fanno talvolta i cacciatori di androidi, finché un cacciatore autentico come Rick Deckard non li, virgolette, ritira. Sapete che gli androidi non si uccidono, si ritirano. In Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Gli androidi sono protagonisti perché tutti sono tendenzialmente androidi, ma nessuno sa di esserlo. Perché gli umani vogliono gli animali veri, ma più come status symbol che per vero amore. E il test Void Kampf, che è fatto per distinguere gli androidi dagli esseri umani, è una truffa. Ecco, qui in poche righe ci viene non solo sintetizzato il contenuto di questa opera, di questo romanzo di Philip Dick, ma ci viene presentato per buona parte la problematica del mondo ipertecnologico contemporaneo, un mondo nel quale noi facciamo sempre più fatica a distinguere tra ciò che la tecnologia fa in quanto nostro strumento e ciò che la tecnologia fa invece in quanto nostro padrone, e in quanto diciamo dimensione, ambiente che si è in qualche misura autonomizzata rispetto alla volontà umana. Androide come strumento e androide come soggetto. Fra questi due poli ha sempre oscillato la posizione di Dick verso l'uomo artificiale, un tema cruciale dell'immaginario di tutta la modernità e in particolare della fantascienza, che Philip Dick ha saputo investire di nuovi e laceranti significati. Quando Dick comincia a scrivere, il paradigma che potremmo chiamare fordista del robot è già stato stabilito nella fantascienza degli anni 30 e 40 da autori come Eando Blinder, Lester Del Rey e soprattutto Isaac Asimov con le famose 3 leggi della robotica. Allora, questo è il riferimento all'androide classico, l'androide fordista, l'androide utensile. Voi forse conoscete Isaac Asimov, quello che viene considerato il più grande scrittore della fantascienza classica, diciamo. E nella trilogia dell'Impero, Isaac Asimov enuncia le 3 leggi della robotica, che dicono essenzialmente che il robot non può fare niente contro il suo costruttore, non può fare del male ad un essere umano, deve sempre obbedire alla volontà dell'umano, e poi c'è una 3ª legge che non mi ricordo. Ma insomma, l'essenziale di queste 3 leggi, che non sono leggi scritte su una carta, ma sono scritte nel corredo genetico stesso del robot, sono il programma, diciamo così, del robot medesimo, è un programma che garantisce che il robot sarà un servitore, un utensile, uno strumento. In qualche modo possiamo dire che questa concezione utopica, se vogliamo, della tecnica e dell'androide in modo particolare, corrisponde allo stadio fordista della produzione. Cioè, cos'è il fordismo? Il fordismo è il modo di produzione industriale costruito, concepito intorno alla catena di montaggio. La catena di montaggio, che è il modello, diciamo, compiuto della civiltà industriale moderna, è un sistema nel quale gli esseri umani sono operatori di una catena, per l'appunto, di una cinghia che porta su di sé i pezzi che vengono progressivamente trasformati dagli esseri umani. La cinghia non ha nessuna autonomia, però potremmo dire che il vero soggetto di questo processo non è né l'operatore né la cinghia medesima, ma è il capitalista, è il capitale che governa il ritmo della cinghia, che decide che cosa debbono fare gli operatori. In un certo senso potremmo dire che nella catena di montaggio la macchina è una macchina, ma gli operai sono macchine anche loro. Anche gli operai sono ridotti alla condizione di esecutori di una volontà, di un progetto che sta nella mente del progettista, del capitalista, del potere e così via. Dunque, il fordismo riduce il processo reale ad un processo puramente esecutivo. C'è tutta una letteratura, tutto un movimento, tutta una azione politica di denuncia contro questo tipo di riduzione degli esseri umani a macchine. E il fordismo in qualche modo viene superato nel momento in cui la macchina puramente esecutrice viene trasformata in macchina cibernetica. Con la cibernetica, poi con l'informatica, poi con il digitale, poi con la rete, passiamo dal fordismo al post-fordismo o produzione reticolare, produzione cognitiva e così via. A questo punto gli androidi non sono più androidi, perché non sono più meri utensili, volevo dire, perché all'interno della macchina viene inserito non soltanto un ordine che costringe la macchina a svolgere la sua funzione di utensile, ma viene inserito un programma che gli permette di diventare in qualche misura intelligente. Ecco che la macchina poco alla volta assimila le condizioni, le caratteristiche di intelligenza che sono proprie dell'umano. Negli stessi anni in cui Philip Dick comincia a scrivere, Asimov pubblicava Abissi d'acciaio, in cui è chiaramente posto il problema della distinzione e del conflitto tra uomo e robot umanoide. Dick userà indifferentemente questo termine, robot umanoide, oltre a simulacro e oltre ad androide. Androide viene dalla parola greca andros, che significa uomo. Quindi l'androide è un umanoide, è un robot che però ha caratteristiche umane. In Blade Runner Philip Dick ha complicato ulteriormente il linguaggio introducendo un quarto termine che è replicante. In Abissi d'acciaio Isaac Asimov immagina degli androidi che fanno sesso, cioè anzi sono proprio gli esseri umani, non fanno più sesso, ma intrattengono rapporti sessuali con degli androidi concepiti appositamente per